In Polonia si è arrivati ormai al 10° giorno di manifestazione di piazza, culminate nella grande manifestazione che c'è stata venerdì a Varsavia, quando ci sono state, secondo gli organizzatori, 150.000 persone in piazza. Le proteste vanno avanti e sono nate dopo una sentenza del Tribunale Costituzionale polacco del 22 ottobre, che rende sostanzialmente illegale l'interruzione di gravidanza in caso di malformazione del feto. È una specie di divieto totale di aborto a quel punto, perché la legge approvata nel 93 consentiva l'aborto legale soltanto in 3 casi: nel caso di stupro incesto, nel caso in cui la vita della donna fosse in pericolo e nel caso di, appunto, di gravi malformazioni fetali. Che però, dei pochi, diciamo, aborti legali censiti all'anno in Polonia, secondo i dati sono più di circa 1 migliaio di aborti l'anno, quel caso costituiva il 98%, quindi sostanzialmente è un divieto totale. Come si è arrivati a questo punto? Diciamo che la legge è una delle più restrittive in Europa, c'erano stati diversi tentativi di respingerla ulteriormente da quando il partito Diritto e Giustizia ultraconservatore dal 2015 è al potere, tentativi per via parlamentare sempre respinti, in qualche modo falliti, anche grazie alle grandi proteste che sono nate. L'anno scorso però un centinaio di parlamentari, soprattutto di Diritto e Giustizia, ma anche di altre formazioni di estrema destra, hanno, sotto pressione della Chiesa Cattolica, hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale della legge, appunto, che consentiva di abortire in caso di malformazioni del feto. La Corte Costituzionale, che è stato uno dei primi organi a cadere, diciamo, sotto il controllo di Diritto e Giustizia, ha dato ragione a questi parlamentari, quindi sostanzialmente si è arrivati a questo punto non per via parlamentare, ma attraverso la pronuncia della Corte Costituzionale. Si può parlare di un parto imposto dalla legge in questo caso? In Polonia, come dicevo, ogni anno vengono censiti pochi aborti, circa 1 migliaio. Le donne sostanzialmente si auto-organizzano, nel senso che il 98% appunto degli aborti, di questo milione di aborti, riguardava questo caso, ma secondo le organizzazioni femministe ci sono almeno tra le 100.000 e le 200.000 donne all'anno che vanno all'estero ad abortire o riescono ad abortire, diciamo, in maniera illegale, ovviamente chi ne ha la possibilità. È notizia di questi giorni che, nonostante la sentenza non sia ancora, diciamo, operativa, gli ospedali polacchi, le cliniche polacche stanno iniziando a cancellare gli appuntamenti e a respingere le donne che volevano abortire, ancora possono farlo legalmente, nel caso di gravi malformazioni fetali. Sì, è chiaro che si costringe sostanzialmente una donna a portare avanti una gravidanza anche nel caso in cui il bambino non abbia nessuna possibilità di sopravvivere. È una cosa terrificante. Con questo inasprimento della sentenza, quindi, si vedrà un aumento, presumo, dei viaggi all'estero, sia legali che, parlando di aborti illegali, e poi ci saranno delle conseguenze anche sul sistema di cura sanitario, penso a chi non può permettersi questi viaggi, alle famiglie che vedranno nascere magari dei bambini disabili e quindi dovranno prendersene cura. Assolutamente, allora il fatto di andare all'estero o di, diciamo, appoggiarsi a reti di supporto che aiutano per esempio a ordinare le pillole online è chiaramente un grosso aiuto per le donne, ma è una questione di classe, perché, diciamo, andare all'estero ad abortire quando non supportate da reti che si fanno carico, per esempio, perché ci sono, e che si fanno carico del viaggio, diventa una cosa che si può fare soltanto chi se la può permettere, così come avere accesso a tutte queste risorse online, pensiamo a chi abita nei paesini. In questi giorni in piazza stanno scendendo anche moltissimi medici e moltissimi ginecologi, proprio perché la loro paura è che a quel punto l'aborto clandestino, non soltanto con metodi, diciamo, sicuri, ma anche a quel punto a rischio, mettendo a rischio la vita della donna, potrebbe subire una crescita assolutamente esponenziale, e quindi sono molto preoccupati per questo. In questo 2020 abbiamo visto molte manifestazioni anche in America, per esempio con il Black Lives Matter. C'è una tendenza a riprendersi le piazze, a far risentire la propria voce, e come questa rinnovata tendenza del manifestare si sta sposando con le norme invece di sicurezza, visto il momento di pandemia che stiamo vivendo? Sì, tra l'altro la Polonia, che in questi giorni sta vedendo anche decine di migliaia di persone in piazza, non è esente dal momento che stiamo vivendo, perché anche lì i contagi stanno crescendo, così come, diciamo, in tutto il mondo e in tutta Europa, diciamo, si inserisce perfettamente in quel nel momento che stiamo vivendo tutti. Quello che è interessante è che, per esempio, in Polonia il Movimento delle Donne è stata la prima manifestazione in Europa di piazza ai tempi del lockdown, del primo lockdown, perché c'era stato un tentativo ad aprile di mandare sempre per via parlamentare e restringere sconfiggere la legge sull'aborto, e ad aprile eravamo nel pieno della quella che potevamo chiamare, non so, la prima ondata, e comunque le donne sono scese in piazza trovando dei metodi alternativi. Non si poteva fare assembramento, non si potevano fare cortei, e quindi cosa hanno fatto? Giravano per la città con bandiere su biciclette, macchine, bloccando il traffico in questo modo, oppure addirittura si mettevano in fila, distanziate, davanti ai negozi, quello si poteva fare tranquillamente, scandendo slogan, portando striscioni, cartelli, bandiere dello sciopero delle donne. Quindi, se vogliamo, è stato proprio il primo sforzo di scendere in piazza pur rispettando il distanziamento sociale e tutte le norme per arginare i contagi. Chiaramente questa cosa adesso è saltata, quindi le manifestazioni hanno preso tutt'altra piega, ma perché la misura è andata oggettivamente oltre, e quindi diciamo che anche le rivendicazioni stesse non sono più le stesse, perché non si tratta più di difendere la legge esistente. Le persone che sono scese in piazza in questo momento, soprattutto diciamo i movimenti femministi che stanno organizzando le proteste, a questo punto vogliono una legge sull'aborto legale.